trabajas en Inditex. Más guapa no puede ser. Parada en la puerta de al lado, me han dicho que te habías mudado. Trabajas en Inditex, doblando ropa tal vez. Si coincidimos en el supermercado, ese es el día mejor del calendario. Seguramente estás sola, ya que eres nueva en la ciudad. Cualquier día me gesto si me atrevo, te invito a ir a bailar. Cari amici, buonasera, la tela sonora, Radio Alma 101.9, con me qui in radio Marcella, ciao Marcella, e Paola Grauso alla regia. Ciao, buonasera. Ciao, bellissima. Allora, questa sera, beh, non potrei dire che è una sera speciale, perché tutte le nostre sere sono speciali, perché i nostri amici scrittori sono speciali. Sono speciali, sono tutti speciali a loro modo, ma questa sera, contrariamente alla classica, diciamo così, caratteristica della tela sonora, non parleremo solo di poesia, ma parleremo di un romanzo di Stefano Elio Danna, ed è un romanzo comunque poetico, è per questo che io l'ho scelto, e con Stefano si è pensato appunto di dare comunque un ritmo poetico alla serata. Poi seguirà invece una piccola intervista con Umberto Simone, il Sacco del Curdo, e a questo proposito ringraziamo il Ponte del Sale. Quindi, cari amici, chiaramente non vi dico nulla, vi dico soltanto che la scuola degli dèi è un viaggio che ognuno di noi dovrebbe fare all'interno di una, così, di un concetto, di qualcosa che è più tangibile di qualsiasi altra cosa al mondo, che sono i sogni, i nostri sogni, perché i sogni sono l'unica realtà. Ma questo ce lo dirà Stefano. Adesso mandiamo un po' di musica. Sapete che abbiamo alcuni gruppi che ormai sono sponsor della Tela Sonora, e stasera abbiamo, credo, Paolo, lo vuoi dire? Abbiamo, chi abbiamo? Loris Ferri? Loris Ferri e Zero Volume. Quindi ringraziamo Loris Ferri, ringraziamo anche Zero Volume, in particolar modo Giorgio, che è il contatto. Speriamo che presto possano venire a Bruxelles a partecipare così alla Espace di AI, i concerti del sabato sera. Ringraziamo Radio Alma ancora una volta per dare lo spazio alla parola poesia e al suono, perché con Ike Nunc voi sapete che non ci occupiamo soltanto di parole, di rime, ma di musica, di sonorità. Ringraziamo Anna Maria Farambi, che è la nostra musa, l'ideatrice di Brussellando e poi della Tela Sonora, e grazie a lei tutto questo è stato possibile, perché è stato il nostro dreamer, come direbbe Stefano, la persona che ci ha caricato, ci ha dato così una coscienza nostra, individuale, personale, e quell'integrità necessaria per credere in quello che si fa e quindi metterci tutte le energie del caso. Allora, che ne dici Paola, ci siamo? Ci siamo. Con chi ci vai ascoltare questa sera? Cominciamo con gli Zero Volume. Vai, ok, Zero Volume e poi Stefano in linea. A dopo. Thank you. bianco e nero. Sudore affannare di un cane che saliva lingua le scale, il belare affamato assetato di un cane veniva verso stremato, allucinazione dovuta agli allucinogeni che scendo di solito salendo la scala che porta su alla porta della casa, sta scemando alito pestilenziale in lieve ansimare. Perpetuo moto edificante il matto impesto, la peste giunse improvvisa e si espanse rapida. Godere col naso, cuscino di piume d'oca che guancia, separare malamente prospettiva visiva e canali respiratori in cancrena, marcio da casto, rezzi da rizzi, penombra piomba di persiane rugginite dalla malora. La giornata numero 48 inizia come sopra e lei sotto, con me vi niente troppo persto. Buonasera cari amici, di nuovo bentornati con noi, Radio Alma, la tela sonora. Avete ascoltato Lucio Pacifico, fotografia, vero Paola? E abbiamo con noi il nostro ospite Stefano. Stefano, ci senti? Sì, vi sento. Bene, ciao. Allora, senti, io ho fatto una piccola introduzione al tuo libro e ho detto che abbiamo deciso, nonostante la tela sonora si occupi principalmente di poesia, comunque di intervistarti, perché questo libro ha comunque un ritmo poetico suo ed è poesia, una poesia diversa. Quindi se ci vuoi invece raccontare tu, per spiegare ai nostri amici radioascoltatori, che sono quasi tutti italiani, sono anche francesi e siamo a Bruxelles come tu sai, parlare un pochino della tua storia, del Dreamer e soprattutto del tuo cammino che ti ha portato così alla scoperta di questa tua capacità, che poi era qualcosa già che tu avevi fin da piccolo, che era il tuo sogno. Che ne dici? Ma non so se hai letto il libro, però in realtà è un po' una storia autobiografica che vuole raccontare un percorso di un uomo ordinario, di uno qualunque che ha i problemi di tutti e che a un certo punto della sua vita crede anche di essere un po' sfortunato, perché per una serie di circostanze le cose non gli vanno bene, come accade a tanti, uh-huh. E è abituato a incolpare sempre il mondo, gli altri, le condizioni, gli eventi, le circostanze, e finalmente incontra un personaggio molto speciale, e ha un incontro straordinario con un essere che poi nel libro viene chiamato il Dreamer, che appunto gli spiega che il mondo funziona esattamente al rovescio, cioè quello che noi pensiamo che ci arrivi dall'esterno in realtà è prodotto da noi, che siamo i creatori di tutto quello che ci accade, e nulla ci può arrivare incontro nella vita che non sia stato deciso da noi, anche se molto spesso inconsapevolmente. Quindi la vita è come tu la sogni, ma noi non siamo consapevoli di questo sogno, e molto spesso è un incubo. Ok, senti, tu parli della sindrome di Narciso a un certo punto, e dici che c'è appunto questa convinzione nociva che esista un mondo esterno a noi. In effetti, più o meno l'hai già detto, questo mondo esterno poi esiste, ma non esiste, perché siamo noi che lo proiettiamo in base ai nostri pensieri. Non è diciamo percepito, è proiettato, è un'immagine come su uno schermo. Ok, e ci sono anche, se ho ben capito, diversi livelli, diverse realtà alle quali noi accediamo in base anche alla nostra crescita personale e in base alla nostra evoluzione. Quindi, sì. Ecco. Però, come ti chiami, Gabriella? Sì, mi chiamo Gabriella. Ah, ecco. E Gabriella, io intanto vorrei dire che il libro intanto non si trova, quindi non è questa una campagna pubblicitaria, il libro è praticamente introvabile, quindi abbiamo una finestra aperta così a un incontro tra di noi, con gli ascoltatori, su un tema che poi probabilmente, stando pochi, potranno apprezzare. Ogni modo il libro non ha nulla a che fare con racconti di evoluzione interiore o di spiritualità, intesa in questo modo, perché non è il mio genere, non l'ho mai accettato e non è quello che è accaduto a me. Io soltanto praticamente è come se mi fossi ritrovato ad avere tra le mani una scoperta, come un po' come è accaduto a Copernico, no? Che a un certo punto viene a scoprire che è la Terra che gira intorno al Sole e non viceversa. Qui dobbiamo scoprire che il mondo funziona dall'interno all'esterno e non viceversa. Quindi, per esempio, tanto per fare un esempio molto concreto, noi siamo soliti pensare che abbiamo paura perché incontriamo qualcosa che ci spaventa. In realtà poi il Dreamer mi ha spiegato che invece prima viene la nostra paura e poi arriva qualcosa che ci spaventa. Se noi siamo i creatori di quel quelle cose a cui noi reagiamo. Sì, sì. Sono perfettamente d'accordo con te. Dopo... Quindi noi incolpiamo il mondo, ma in realtà siamo i produttori di quello che incontriamo, nel bene e nel male. Adesso, per quanto riguarda Narciso, è molto interessante perché è un antichissimo messaggio, naturalmente viene dalle profondità della nostra civiltà, che si occupa di dirci qualcosa che non vogliamo sapere. Cioè, Narciso è qualcuno che si specchia nel mondo e non lo riconosce, non riconosce nel mondo se stesso, proprio questo, no? L'ignoranza di vedere nel mondo il nostro riflesso. E non sapendo questo, non potendo riconoscere il nostro riflesso nel mondo, pensiamo che il mondo sia qualcosa di estraneo a noi, per cui ci capita sempre di sentire che il mondo non funziona, che c'è troppa violenza, che c'è criminalità, inquinamento e così via, come se si trattasse di una realtà che non ci riguarda, in cui noi non abbiamo nessuna partecipazione, no? In realtà poi il mondo non è nemmeno quello che siamo noi. E il mea culpa dovrebbe diventare il credo planetario. Senti, quindi quando dici che in fin dei conti il campo di battaglia è il nostro corpo, quindi tutto avviene all'interno di noi. Sì, in questi pochi centimetri, diciamo, di carne e ossa si svolge una lotta titanica, universale, che in effetti finisce quasi sempre con una sconfitta. Anzi, direi sempre. Quasi sempre. Tranne per il caso che ho incontrato, per cui io sono stato testimone, e in tantissimi anni ho raccolto molto da questo incontro e poi l'ho messo in un libro. Mi è costato molti anni di lavoro, però. Il libro è per sempre, come tu dici. Questo com'è? Libro. Questo libro è per sempre. Sì. Ok. Sì, per sempre, per il semplice motivo che racconta cose che non hanno inizio né fine. Ecco, per tornare un attimino, diciamo, sulla terra, nel senso per raccogliere la... Torniamo sulla terra. Tu a un certo punto dici, lo leggo in inglese perché l'hai scritto in inglese, eat less and dream more, sleep less and breathe more, die less and live forever. Quindi qui c'è un concetto, il concetto della morte, che tu hai capovolto, perché hai capovolto tutto in questo libro. La morte non esiste. Beh, il capovolgimento è mettere il mondo esattamente nella giusta posizione, perché così come noi abbiamo l'immagine sulla retina cade capovolta e piatta, quindi noi non vediamo la profondità, noi percepiamo il mondo a due dimensioni, senza profondità, e lo percepiamo capovolto, quindi dobbiamo fare un lavoro mentale di cui non ci rendiamo neanche conto per raddrizzare le immagini. Così il mondo viene percepito psicologicamente capovolto e noi dobbiamo fare il lavoro per rimetterlo a dritto. Quindi il capovolgimento è esattamente vedere il mondo così com'è, com'è nella realtà, non così come siamo stati educati. Infatti, e quindi parli inconsapevolmente, ci stai raccontando di una costrizione. Infatti nel libro tu a un certo punto dici che Old Dreamer dice: troppe sono le leggi che ci costringono a restare quello che siamo. Anche la ricerca che il Dream aveva affidato al protagonista del libro, in fin dei conti il protagonista la trasforma in qualcosa che va contro di lui e quindi dà adito al suo, diciamo, al suo ego, alla sua vanità di crescere. Allora, d'accordo che non ce la facciamo da soli, d'accordo che pochi sono quelli che riescono a capire, perché ormai siamo ipnotizzati, come tu dici, e allora... Abbiamo ricevuto un'educazione che in effetti è un racconto del mondo, è un modo di raccontare il mondo al quale non ci siamo mai ribellati, né siamo mai entrati nella condizione di valutare magari delle alternative a questo racconto. Benissimo. Il racconto, per esempio, di dover invecchiare, ammalarsi e morire è un racconto. Noi crediamo ciecamente perché non pensiamo che invece il mondo possa funzionare diversamente. Ecco, a me piace molto quel passaggio in cui ti dici che ai bambini bisogna insegnare a ricordare, perché in effetti non si insegna nulla. Questo potrebbe essere un monito per i genitori, perché al giorno d'oggi si ha così la... Noi crediamo molto nell'aggiunta nell'aggiungere nozioni, informazioni, e quindi ci sentiamo soddisfatti quando vediamo che il bambino si riempie di nozioni. In realtà educazione viene da ex duco, che significa condurre fuori, quindi non è un aggiungere, è un togliere. Quindi la vera educazione sarebbe l'eliminazione di pesi, di limiti, di di zavorre. Di preconcetti. Certo, quindi più si cresce, più in fin dei conti questa zavorra cresce. Quindi a un certo punto sì, si deve... Corriamo con sempre più peso. Che sempre più peso. E quindi potrebbe essere anche effettivamente quel famoso discorso, quel famoso lamento che sentiamo, quante cose da fare, come mi sento stanco, come sono stanco. Beh, lamentarsi sì. Ecco, allora... Lamentarsi è diciamo, l'attitudine più diffusa sul pianeta. Sì. Anche quando non ce ne accorgiamo, ci stiamo sempre lamentando. Ci stiamo lamentando. Mentre tu dici che effettivamente bisognerebbe fare il contrario. Ringraziare per l'abbondanza, ringraziare per tutto quello che già abbiamo o che siamo. Perché poi è interessante, tu rovesci anche il concetto avere-essere. E questo credo che valga la pena qualche momentino. Per esempio, questa è proprio una cosa che possiamo capire abbastanza semplicemente. Cioè, noi vogliamo avere, però non avere un effetto, quindi non può arrivarci così semplicemente, deve arrivare come effetto di qualcos'altro, quindi è l'essere che decide l'avere e non viceversa. Quindi noi pensiamo, per esempio, se avessi un'auto sportiva, una casa al mare, un bellissimo partner, sarei felice, no? Uh-huh. E invece le cose sono capovolte, noi prima dobbiamo essere felici e poi possiamo avere tutto questo. Okay. Cioè in effetti noi dobbiamo prima essere e poi possiamo avere, quindi possiamo avere solo quello che siamo. In effetti quando qualcuno malauguratamente ha più di quello che è, sono sempre storie molto infelici. Per esempio l'ultimo caso della cronaca è questo qui che ha vinto 500 milioni e è sparito, prima di tutto ha abbandonato famiglia e tutti, e poi dopo quando è tornato l'hanno trovato così, mi pare è stato insomma assassinato e non si sa neanche bene come è successo tutto questo. Cioè, è una tragedia praticamente, una tragedia. E uno potrebbe dire, ma se avessi 500 milioni sarei un uomo felice, una donna soddisfatta perché farei questo e quell'altro. In realtà non ci potrebbe essere nulla di peggio che ti possa arrivare nella vita se non c'è un essere che sostiene l'avere. Perfetto. Ma questo vale anche per le nazioni, vale addirittura per le civiltà. Adesso per esempio siamo in un momento di post-America, è un'era post-americana iniziata in cui l'America dovrà ridurre il suo ruolo, si rimpicciolirà, si ridurrà come presenza, come anche forza economica e forza militare, per il semplice motivo che non ha più i valori per sostenere questo, ecco, avere. Benissimo. Allora, qualcuno potrebbe voler avere la bomba atomica, ma non ha l'essere per sostenerla, il mondo lo sa. Il mondo sa che l'Iran non può avere la forza atomica perché non ha la maturità democratica, sistemi di controllo che ci diano garanzie. Quindi è una legge generale. Certo, quasi molto identica. Interessante. Molto, molto bello. Quindi in effetti significherebbe che invece di andare a puntare tutto sull'avere, cercare di avere quanto più possibile, che poi è la radice della criminalità, bisognerebbe puntare invece sull'essere di più. Quando sei di più, il ricevere, l'avere, diventa automatico. Quindi non dobbiamo inseguire l'avere, è la montagna che va a Maometto. Ecco, allora, quindi per tutta la vita noi cerchiamo sicurezze e soddisfazioni che sì. sono fuori di noi. E invece, il bello della diretta, non sì. solo perché siamo in diretta con te Stefano, ma il sì. bello della vita è proprio esattamente il contrario. Sì. Che la sicurezza è dentro di noi, perché già tutto è dentro di noi e noi semplicemente dobbiamo andare a scavare, a guardare, a sentire, a come dire, emozionarsi, quindi non a cercare l'amore, ma emozionarsi nell'amore, a essere, come dire, come dici te, felici, ma essere anche uomini e donna. Quindi tu cosa hai fatto dopo questo sogno che grazie al Dreamer tu hai ricordato, perché se ho letto bene nel libro questo sogno è un sogno che tu hai avuto da fin da piccolo. No, veramente il Dreamer mi è servito a capire che non avevo un sogno ma un incubo. la mia vita sì, era okay. esattamente quello che sognavo, soltanto sì. che non sapevo di sognare cose così terribili. Okay. Noi sogniamo la malattia, noi sogniamo il fallimento, sì. sogniamo l'invecchiamento, quindi noi non sappiamo esattamente che cosa. I sogni si avverano sempre, però sfortunatamente si avverano anche i sogni cattivi, diciamo. Quindi la famosa. Le distopie, non solo le utopie, ma anche le distopie si avverano. Quindi, e questo, quindi conoscere se stessi, l'antico motto, che è più antico di Socrate, naturalmente, che era già scritto sul tempio, già ai tempi di Socrate. E in effetti conosci il tuo sogno. Infatti in siciliano io sogno significa io sono, no? Io sono, io sogno. Guarda, sulla Sicilia anche, I dream, I am. Io sono il mio sogno, sono quello che sogno e non posso sognare niente di più grande di quello che sono. E queste sono equazioni fondamentali che io ho dovuto apprendere in tanti anni e ancora studio. E soprattutto... Quindi stai intervistando uno studente? No, no, sì. Gli spettatori, certo, gli ascoltatori sono interessati. Certo. Ma d'altra parte sono scuole speciali, scuole che ci arrivano dall'antichità più remota e più sono sempre esistite. Scuole che preparano uomini speciali, che non si lasciano ipnotizzare, che vedono le cose... Chiare. Questa chiarezza è un lavoro. E ti posso interrompere perché tu hai detto una cosa nel libro che a me mi è piaciuta moltissimo, perché è proprio la relazione con gli altri. Noi sempre abbiamo il bisogno di scaricare le nostre responsabilità sugli altri, ma in effetti gli altri non sono altro che noi stessi, cioè non sono altro che me fuori di me, giusto? Sì. Quindi è un modo, è uno specchio. Sì, ma è una cosa che può sembrare misteriosa, ma in realtà è molto semplice. Noi, se anche siamo su un treno e ci si siede qualcuno accanto, o sull'aereo, dovunque incontriamo qualcuno, dovremmo sempre chiederci come mai questo. Cioè noi incontriamo i nostri stati d'essere, cioè questa è una cosa difficile da... però... non credo sia così difficile. Noi incontriamo i nostri stati d'essere. Quando noi siamo in altri stati d'essere, noi non facciamo più quegli incontri. In questo senso gli altri sono la nostra proiezione, non perché poi spariscano, ma non li incontriamo più. Incontreranno altri che erano nelle nostre condizioni. Quindi certi brutti incontri, chiamiamolo così, o spiacevoli, a un certo punto spariscono dalla nostra vita, quando certi stati d'essere spiacevoli non hanno più bisogno di materializzarsi. Quindi queste persone non fanno altro che ricordarci come sentiamo, le nostre emozioni, le nostre sensazioni. È molto interessante vedere il mondo così. Sì. Perché tutto quello che quindi vediamo e tocchiamo ci dice di noi. E penso che è meraviglia. Come se avessimo l'oracolo di Delfi a disposizione 24 ore al giorno. Senti, quindi smettiamola di avere così tanta fiducia che gli dèi siano fuori di noi, perché il vero unico Dio è dentro di noi. Noi siamo Dio, tu a un certo punto dici nel libro. Tu sei un po' mistica, un po' romantica, cioè io... Tanto! Quindi se mi trovo a disagio nel rispondere, perché io invece sono molto laico e molto legato a una specie di razionalità, la chiamerei una lucidità. Noi dovremmo cominciare a capovolgere tanti concetti. Molto spesso capovolgendo ci troviamo nel giusto, quasi quasi non ci sbagliamo mai. Capovolgere. Io non ho paura per questa cosa, ma è questa cosa che arriva perché ho paura. Ma pensa un po' che cosa meravigliosa. Questo significa controllare poi la propria esistenza. Perché qui due sono le cose, Gabriele, poi credo che il tempo sia... No, ce n'hai ancora. Perché questa cosa è molto interessante, cioè noi abbiamo due possibili teorie, se ci andiamo a guardare bene. Io non so se tu hai un figlio, mi sembra una voce giovane, quindi abbiamo un figlio, poi è anche legittimo che questo qui un giorno ci chieda perché mi hai messo al mondo. No, perché guardo bene, dico, ma questa è una valle di lacrime, la gente si uccide, fallisce, si separa, fa guerre, siamo in un mondo inquinato, cioè dico perché mi hai portato qui, qual è stato il motivo? No? Ed è una domanda imbarazzante per un genitore, no? Ora se noi andiamo a dire bene, guarda figlio mio, qui le cose sono così, il mondo è fatto in questo modo, l'unica cosa che ti posso augurare è che tu te la cavi, cioè che non ti tocchi mai una malattia, che non capiti in un incidente, che non ti arrivi qualche malanno, che non lo so. Auguriamoci che vada tutto bene, ma non abbiamo noi controllo di questa situazione, quindi non è una bella notizia da dare ai figli. Invece, rovesciando tutto questo, certo. Io non dico che sia la verità, ma mi sembra molto più interessante poter dire a un figlio, tutto dipende da noi, i nostri stati d'essere, il modo in cui pensiamo, le nostre attitudini, il modo in cui reagiamo, creano gli eventi della nostra vita, le persone che incontriamo, le situazioni in cui ci troviamo. Mi pare molto più sano spingerci a credere che la vita è nelle nostre Faber dei Romani crea un impero, tutto l'impero romano si crea sulla convinzione che l'uomo può. Invece noi siamo ridotti a una civiltà che ci dice che piuttosto dobbiamo sperare di cavarcela. Ecco, quindi non è che ci siano alternative, o l'uno o l'altra. O crediamo che la nostra vita è in balia, per esempio la malattia ci può toccare in qualunque momento, un incidente può arrivare in qualunque modo, oppure noi crediamo che il modo giusto di condurre la nostra vita può tenerci fuori da questo. Io credo che sia molto più interessante. Soprattutto molto più etico dire a un figlio che ho messo al mondo perché credo che la vita sia nelle tue mani e puoi vivere in paradiso o all'inferno, tocca a te decidere. Quindi dipendere è una servitù intollerabile, a un certo punto tu dici. Dipendere è una servitù intollerabile, ma è lo sport planetario. Quindi lo sport planetario dobbiamo fare in modo di non giocarlo, quindi rivoltiamo un attimino questo concetto e non giochiamo lo sport planetario, facciamo esattamente il contrario. Sai, questo è un discorso per individui, la porta è stretta, vogliamo illudere che adesso dalla trasmissione migliaia di persone possano prendere la loro vita in mano. Questa è una cosa che, guarda, se da questa trasmissione una sola persona capirà, avremo fatto qualcosa di straordinario, di miracoloso, una persona che capisca e si metta su questa strada di prendere responsabilità della propria vita. Dipendere è accettare di non essere responsabili, che le cose accadano. Per esempio il Dreamer dice che le malattie sono tutte mentali, no? Ora, accettare qualcosa del genere non è soltanto accettare una teoria, eccetera, significa accettare responsabilità. Se tutte le malattie sono mentali, senza eccezioni, tutte, vuol dire che ammalarsi è nostra responsabilità. E noi preferiamo credere che le cose ci arrivino. Dura, da dove arriva una malattia secondo te? A un figlio che cosa gli diciamo? Cioè, una malattia può arrivare in qualunque modo, che siamo sotto il cielo, che quindi non abbiamo possibilità di proteggerci. Oppure possiamo dire, guarda, che una malattia deve chiedere il nostro permesso per poter prendere possesso del nostro corpo. Questo mi pare molto più interessante. Quindi è tutta questione anche di gradi di libertà che ognuno di noi anche raggiunge, perché la libertà di sentirsi così indipendenti totalmente. La libertà va con la responsabilità, per cui quindi sì. Quando noi cerchiamo di evitare la responsabilità dobbiamo ridurre la libertà. Cioè non possiamo essere meno responsabili e più liberi. Dobbiamo essere. Non so se mi segui in questo. Sì, sì, ti seguo. Quindi il discorso che tu... La libertà si paga con la responsabilità. Infatti tu dici... La responsabilità è quella cosa che nessuno vuole prendere perché è penosa, è faticosa. Quindi per esempio se io devo prendere la responsabilità dell'ammalarmi è più faticoso che non pensare che questo dipenda da qualcosa d'altro. Poi va a sapere che cos'è, siamo degli idolatri, no? Se vai a pensare, no? Perché se non dipende da te la malattia, da che cosa dipende? Certo. Ti pare? Mi pare riflettere. A chi dobbiamo dare la responsabilità? È una cosa che ci arriva, speriamo che non ci tocchi, ma alla fine questo caso chi è che lo gestisce? Cioè non siamo mai andati a fondo, capito? Non siamo mai andati a fondo, però... Molto più interessante pensare che la malattia mi ha chiesto il permesso e anche se non me ne sono accorto gliel'ho dato. Concesso. Nel libro racconto un episodio molto interessante. Sì. Quando, ma anche per esempio nella famiglia Agnelli e in altre famiglie ci sono molte riflessioni da fare su come sfuggire alla responsabilità. C'è chi si ammala e muore, chi si suicida, chi sfugge anche nella pederastia o nell'omosessualità, cioè ci sono tanti modi di sfuggire alla responsabilità. Adesso io dico una cosa che farà discutere i tuoi ascoltatori, ma anche l'omosessualità è un modo di sfuggire alla responsabilità, per cui sai, immaginare un'umanità responsabile significa immaginare un altro pianeta, un'altra vita. Questo non si può fare in massa, è una fuga che non è possibile in tanti, solo l'individuo può farcelo. Tu per esempio dopo questa conversazione potresti decidere di essere responsabile e gestire la tua vita e di essere felice e ricca invece di essere povera e dipendente. Infatti, ma stai tranquillo che io ho già cominciato a riflettere perché ogni tanto quando mi vedo, mi osservo da fuori come tu hai scritto nel libro, che sarebbe interessante riuscire a fare, no? Self-observation is self-correction. Eh, Sì, self-observation è, d'altra parte, dico, noi abbiamo sempre parlato di conoscersi, ma non abbiamo mai detto come. Cioè, conoscersi è un effetto, non è un qualcosa autonomo. Cioè, come ci si fa a conoscere? Uno vuol conoscere il calcio, compra libri, si guarda le partite, no? Certo. E se uno vuol conoscere se stesso, cosa fa? Si osserva. Si osserva. E comincia a trovare interesse in questa osservazione, quindi per esempio il modo in cui ci sediamo, il modo in cui parliamo, il modo in cui gestiamo, reagiamo, sono tutti elementi interessanti di conoscenza. Poi dopo un giorno ci accorgiamo che da questo modo d'essere nascono le condizioni della nostra vita, cioè anche per esempio un avere limitato, mezzi economici meschini, cioè sono tutti effetti di un essere che non ha l'ampiezza, quindi sì. Noi non possiamo avere più di quanto siamo, quindi noi le scuole, se uno dovesse augurarsi una vera scuola, si augurerebbe una scuola dell'essere, invece che una scuola che ti insegna come avere, dovrebbe avere una scuola che ti insegna come essere. Quindi il denaro non è reale, non vale niente? Ciò che no, è reale? Come non vale niente, vale il denaro, è soltanto che non è prodotto dal denaro. Il denaro non è prodotto dal denaro, il denaro è prodotto dall'essere. Dall'essere, perché quando nell'essere comprendiamo serietà, impegno, commitment, no? Onestà, sincerità, se tutto questo c'è nell'essere, il denaro arriva da solo. Tu parli di ruoli a un certo punto nel libro, dici che in effetti il ruolo è importantissimo, perché dobbiamo essere in grado di... Lo dici a pagina più o meno 236. Dobbiamo essere in grado di giocare, o comunque jouer in francese, ma è di esercitare, sì, o di essere. Sì. Giocare un ruolo oppure sì. to play a role. Ma allo stesso tempo essere indipendenti da questo ruolo, cioè non crederci, o crederci fino a quando stiamo giocando a quel ruolo, ma poi staccarci. Questo è il ruolo del teatro. Cioè, se vogliamo spiegare come mai il teatro è sempre stato così centrale e importante in tutte le civiltà, ma soprattutto in quella greca, e che era proibito alle donne e che era soltanto un'attività per aristocratici, comprendiamo come il teatro fosse una scuola dell'essere che insegnava a non essere prigionieri dei ruoli, a cambiare ruoli e quindi di farlo diventare una prigione. Se io gioco un ruolo non ne sono prigioniero. E ho la flessibilità per poter, quindi in effetti si gioca il ruolo del genitore, come si gioca il ruolo del manager, o quello del marito, o quello del figlio, noi dovremmo essere sempre in uno stato di recitazione. Noi pensiamo che questo sia falsità, in realtà invece la vera condanna è la fissità. La fissità. Meglio essere falsi recitando che essere fissi. E credere in quello che stiamo facendo e prigionieri di ruoli da cui non siamo capaci di uscire. Ti faccio un'ultima riflessione. Quando cioè, tu parli... vuole più bene un uomo che recita di amarti piuttosto che uno che è così stupido da pensare veramente di amarti. Io mi fiderei più del primo. Ok, grazie. Qualcuno che intenzionalmente riesce a creare l'atmosfera di un amore, le condizioni di un amore, questo è un uomo di cui ci si può fidare. Ok, un'ultima cosa, il pagamento può avvenire nel tempo o in assenza di tempo, ce lo vuoi spiegare? Il pagamento, cioè prima bisogna qualsiasi dire che tipo di pagamento. Bisogna sempre pagare in anticipo. Allora, ripetilo perché ho parlato, scusa. No, dico, il sogno intanto ha questa condizione, perché tutti vorrebbero avere dei sogni da realizzare, ma quello che accade è che il sogno richiede un pagamento che è sempre anticipato, magari potessimo pagare posticipatamente, no? Chi è che non vorrebbe esprimere un sogno e poi pagare dopo? Invece il sogno bisogna pagare in anticipo. Sai la storia di Ifigenia, no? E a un certo punto Agamennone ha messo tutto insieme per il suo sogno di conquista, che è quello di prendere questo boccone enorme che era Troia, le cui mura erano state costruite dal dio Nettuno, cioè insomma una potenza, nessuno mai prima c'era riuscito, questo qui si mette in testa di prendere Troia. E quando arriva il momento in cui devono partire per questa grande avventura, eccetera, i venti sono avversi, le correnti sono avverse, il mare è sempre in tempesta, eccetera, e quindi interrogano poi l'indovino per sapere, e questi dicono: devi sacrificare tua figlia, e non una delle figlie qualunque, ma quella che gli era più cara, Ifigenia. Quindi la tragedia di Ifigenia è il pagamento richiesto per il sogno. Quando lui sacrifica la figlia, allora il sogno comincia a diventare realtà. Dice: vabbè, ma perché deve esserci questo? Perché quello significa commitment, cioè se io sono capace di investire tanto e pagare anticipatamente questo prezzo, vuol dire che sono deciso, scommetto la mia vita su quello che sto facendo. Allora il sogno comincia a funzionare. Ok, tu hai creato una scuola. Sì, perché il libro è soltanto la preparazione a questo grande lavoro, che è proprio quello di crearla una scuola dell'essere, tra le università, che naturalmente non creando un mostro, un essere completamente avulso da tutto il contesto, ma una università come le altre, solo che questa università crede più nel togliere che nell'aggiungere, e quindi un lavoro più di eliminazione, di alleggerimento, piuttosto che di appesantimento di nozioni. Poi naturalmente ognuno fa si prende la responsabilità di quello che fa. C'è un mercato, c'è un job market, dove poi i giovani vanno a misurarsi, e lì si vede poi chi è che corre più veloce, chi è che è più apprezzato dalle grandi società del mondo, chi raggiunge le posizioni di maggiore responsabilità. E noi purtroppo, devo dire per le altre scuole, arriviamo sempre prime, e quindi perché i nostri sono più leggeri, e invece di essere imbottiti di stupidità che poi non servono nella vita, sono liberi e credono in se stessi, hanno un sogno, sanno quello che sono nati per fare, e tutto questo conta molto di più. E poi hanno quella qualità che potremmo chiamare integrità, che è l'essere compatti, viaggiare in una direzione senza avere tentennamenti, dubbi, incertezze. Questi sono pochi uomini con queste qualità, e questi sono gli uomini preziosi che bisogna preparare, e noi stiamo facendo questo lavoro. Poi gli altri potranno naturalmente lavorare in altro modo, per carità. Le scuole aristoteliche, chissà quando moriranno, non moriranno mai forse. Senti, a Bruxelles non c'è questa scuola? Come? A Bruxelles non c'è ancora questa. A Bruxelles? Sì. No, non ancora. Ma d'altra parte non perdete le speranze. Adesso apriamo Madrid come sesta sede, quindi un po' alla volta ci stiamo avvicinando. Va bene. C'è modo? Sicuramente Bruxelles nella pipeline del sogno. Ok. Un'ultima cosa. Se ti dovessimo invitare qua a Bruxelles, tu ci vieni per una presentazione banale, una presentazione per farci così assaporare che cosa vuol dire da vicino, presentarti ad altre persone. Se meno mi si vede meglio è, cioè alla fine poi io, cioè, cosa, tutto questo cosa sono? Sono un portavoce, quindi non è che potete aspettarvi un grande thrill dall'incontro. Magari sentiamoci ancora, vediamo, perché no, insomma. Okay. Bruxelles è un po' ventosa, ma è neanche molto attraente, però se le persone sono intelligenti, interessanti, è un invito che non si può rifiutare. D'accordo, va bene, allora ci sentiremo responsabili. No, assolutamente. Ci sono posti migliori. No, giustamente, vabbè, cercheremo di essere... E siccome i posti sono né più né meno che il riflesso di quello che siamo, ecco, appunto. Uno si augura sempre che i posti corrispondano a qualche stato d'essere superiore. Va bene, allora noi cercheremo di essere responsabili e talmente liberi da presentarti il meglio possibile di Bruxelles. Di trovarci nei posti più belli del mondo. Infatti. Esattamente dove mettiamo la scuola, capito? Dal Fifth Avenue al centro di Milano, nel cuore di Madrid. Cioè noi siamo sempre a Firenze, cioè noi amiamo i posti che hanno storia e che ispirano i nostri studenti, perché pensiamo che questo nutra, al di là di tutte le pagine, di tutti i libri del mondo. Noi crediamo che ci sono modi di nutrire l'essere che sono molto più importanti. Bene, il libro poi alla fine siamo noi, nessuno ci ha insegnato a leggerci. Senti, c'è una festa da te? Sì, una festa, però pensavo di concludere. concludere l'intervista prima che ci fosse tanto rumore. Ah no no, ma, noi siamo felici. Una vita finalmente dopo tutte quelle tribolazioni di cui ti ho parlato, che mi hanno poi portato a incontrare il Dreamer, credo che finalmente la mia vita stia viaggiando sul binario giusto. Bene. D'altra parte poi è giusto che sia così, perché altrimenti che cosa vi racconto? Allora senti, in questo momento devo raccontare il successo. Se noi ti abbiamo scovato e se abbiamo scovato il libro, vuol dire che anche noi forse cominciamo. È una capacità particolare, perché non c'è nessuna libreria, quindi. Ma io conosco Marcella, e quindi quando uno dice Marcella a Bruxelles dice tutto. Perché è lei che mi ha parlato di questo libro. Bene. Ok, senti, grazie. Grazie per questa intervista, molto interessante, è stato piacevole, il tempo è passato, non mi sono neanche accorto. In un attimo, e noi ti ringraziamo veramente. Un caro saluto a grazie. Te, agli ascoltatori, e a tutti. E chissà che quella persona di cui parlavamo non ci sia veramente in ascolto e abbia deciso di mettersi sul cammino. Ma già ce ne sono tre, guarda, quindi. Ma sì? Sì, in radio. Beh, guarda, se ce ne sono tre puoi già prenotare il biglietto. Guarda, va bene, aggiudicato, è fatta. Va bene, grazie. Ci vediamo presto. A presto. Bene, ringraziamo Stefano. È stata così la riprova di quanto avevamo già letto con Marcella e con altre persone che si stanno dedicando alla lettura di questo libro. Io proporrei, dal momento che abbiamo ancora uno spazio, di un attimino così ascoltare un po' di musica, perché Paola ha già pronto un brano stavolta di Zero Volume. Sì, Zero Volume questa volta. Sentite che bella vocina che c'ha Paola, che non parla mai. Allora vi diamo questa possibilità di ascoltare di Zero Volume. Ringrazio Giorgio e vado a chiamare Umberto al telefono. A dopo. Amici radio ascoltatori della Tela Sonora, Radio Alma 101.9, con noi Umberto. Ci sei? Sì, ci sono. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, ti abbiamo fatto aspettare, ma adesso ti diamo tutto il tempo disponibile. Caro Umberto, tu sei stato invitato per parlare del tuo libro Il sacco del curdo, e quindi vogliamo assolutamente due cose. Prima, sentire da te una poesia. Secondo, invece, parlare un attimino di quello che è il senso umoristico e il ritmo poetico, perché tu sei un fanatico di queste due cose. Sì, abbastanza. Vai, allora. Il fanatico è un termine eccessivo, ma insomma. Un sognatore di queste cose. Un esempio con la composizione che leggo. Sì. Così, in maniera che si... Dunque, questa composizione si chiama Nessuneide, doveva essere il titolo in realtà del Sacco del Curdo, poi all'ultimo momento l'ho cambiata, ma questo per dire come doveva segnare il tono di tutta la raccolta. Nessuneide. Nonno con gli argonauti fece il viaggio sul buio orlo del mondo, fra i prodigi del mare, fino ai nuovi anelli del dragone intorno al totem con il vello, neri oleosi come tubi di caldaia. E il papo a Troia vide la guerra delle guerre, padiglioni e bandiere, cocchi infranti nel canneto e roghi di pelidi, e dall'oblò nel naso del cavallo la città ignara sotto, come il presepio della cattedrale. Nonno con gli argonauti, il babbo a Troia, ed io senza uno straccio d'avventura, io senza un velo di leggenda, oscuramente cacciato in questa sacca della storia, in questa secca del destino, in quest'epoca folta ma nana come un bosco di bonsai, io gioco all'enalotto, ho la passione dell'astrologia, seguo i gialli a puntate, ho preso una Clio a rate e a volte batto gli amici al flipper della pizzeria. Senti, Umberto, come sei entrato in contatto col Ponte del Sale e come hai in qualche modo, immagino, catturato l'attenzione di Marco Munaro e avete fatto questo lavoro insieme di pubblicare i tuoi libri? Beh, è stata una combinazione, diciamo. Io con la mia prima silloge, che era piccolissima, di poco più di 20 composizioni, che era uscita proprio alla Garibaldina, perché era il premio di un concorso vinto, cioè se si vinceva questo concorso ti pubblicavano una piccola silloge. Io ho avuto la sfacciataggine di spedire questa silloge fatta così, appunto, senza troppo studio, al concorso Diego Valeri, dove fra i giudici quell'anno c'era Marco Munaro, e con mia grande sorpresa non solo sono arrivato fra i finalisti, ma poi appunto ho vinto il premio Diego Valeri, e da lì è nata anche un'amicizia, diciamo, perché poi ci siamo scritti, abbiamo molte cose in comune, anche lui ama la metrica, e insomma alla fine è successo che è diventata anche una collaborazione, diciamo, da un punto di vista editoriale. Senti, il Ponte del Sale è un'associazione senza fini di lucro, sì. Ed è una casa editrice che pubblica gratuitamente opere di poesia. Sì. Quindi tutto questo quindi è possibile grazie all'amore di persone come Marco, come Luciano Checchinel. Ci terrei quindi a ricordarli: Maurizio Casagrande, Pasquale, sì, Di Palmo, sì, sì, sì. Sergio Fedele. Quindi sono tutte persone che credono, e quindi credono in questo sogno, come oggi abbiamo parlato di sogni, credono nella forza della poesia, e quindi senza questa fiducia non riuscirebbero a continuare quindi il loro sogno, a scommettere. E benedetti siano, perché sì. È così difficile farsi pubblicare un libro di poesie, che veramente sarebbe più facile andare su, non lo so, sulla Concagua. Prima di convincere. Bene, tu sai che a Bruxelles è nato il Club del Libro Espel, che diventa casa editrice, di cui insieme, vabbè, io sono fondatrice insieme a due persone che hanno creduto e hanno avuto questa forza, questo coraggio di scommettere sull'iniziativa. Quindi io ti posso assicurare che il Ponte del Sale, Anna Maria Farappi e tutte le persone che io ho conosciuto grazie a lei sono state veramente per me sale di questa carovana di poeti che abbiamo invitato prima brussellando, poi alla Tela Sonora, e sono stati per noi il monito a continuare a credere in questo sogno, e quindi credo che ormai la poesia sia un dato di fatto, sia qualcosa necessario come non mai per continuare a credere un pochino in noi stessi e a dare voce ai nostri, così, alle nostre emozioni più belle, ai nostri sentimenti, alla nostra profondità vera. Quindi il Ponte del Sale è sicuramente una testimonianza, ce ne sono tantissime altre in Italia, e che sia quindi un inizio, speriamo, un inizio che senza fine, come un treno con tanti vagoni, questi vagoni si uniscono uno all'altro. Sì, è una cosa che sì, sarebbe bello se fosse così, se si diffondesse questo fatto. Si diffonderà. Senti, oltre, magari ci leggi ancora una seconda poesia, ma parlaci un attimino invece del tuo ritmo poetico. Perché è così importante la metrica, il ritmo? Io non lo so, io ho sempre pensato questo, che prima di camminare sulle punte, bisogna incominciare a camminare sulle piante. Quindi ho incominciato a scrivere proprio per dire, quando ero ragazzina, perché proprio ho cominciato da ragazzina a scrivere, scoppiazzavo cartucci, niente di meno. Mm-hmm. E adesso sto ritornando alle origini, nel senso che, sebbene forse non sembri, le cose che scrivo sono abbastanza legate metricamente, in quanto sono per lo più mescolanze di endecasillabi e settenari. Io le camuffo per farle diventare più moderne, in quanto so che a molti orecchi la metrica tradizionale risulta una cosa antiquata, mentre invece non è un fatto antiquato. D'altronde, non lo so, se noi guardiamo nel campo della pittura, ecco, Mondrian e Picasso hanno cominciato prima a dipingere quasi come i preraffaelliti e poi si sono messi a dipingere in un altro modo. Quindi trovo che sia imprudente cominciare subito a scrivere i versi liberi, perché i versi liberi sono più difficili, tanto per incominciare, da gestire dei versi della metrica tradizionale. La metrica tradizionale è difficile in un altro senso, perché è una sfida, bisogna far entrare in un certo numero di sillabe un pensiero, e allora questa è una cosa stimolante. Uno non sceglie la prima parola, non sceglie il primo suono, non è semplicemente contare 11 sillabe, 7 o 5, questa cosa tramuta tutto. Se poi a questo si aggiunge una cosa come la rima, che io pratico in questa raccolta, ho praticato poco, devo dire, ma ce ne sono solo due o tre esempi, ma d'ora in poi penso di usare di più. La rima è ancora meglio, perché dà al discorso, è inutile, è evidente, dà al discorso un ritmo incantatorio, straordinario, proprio da un punto di vista sonoro. La rima, leggevo proprio giorni fa sul Corriere della Sera, ho solo orecchiato l'articolo, ma parlava della rima che è erotica. È vero, è erotica. A me piace pensare alla rima come a un'odalisca, mentre invece i versi liberi sono dei ragazzotti che ogni tanto ti danno un colpo in faccia con un gomito, con il ginocchio di un a capo, che spesso e volentieri non sono motivati, perché i versi liberi sono fintamente liberi quanto sono versi liberi seri. E invece tante volte si trova questa cosa che appunto, penso che sia molto importante cominciare con... Ok, Umberto, raccontaci, siccome hai un minuto di tempo, leggici ancora una poesia dove tu hai detto, hai applicato, hai fatto due o tre esempi, dove hai applicato questa severità della ritmica poetica, sempre nel Sacco del Curdo. Beh, sì, io avevo intenzione di leggerne un'altra, ma se... Ah, come vuoi tu, no, ci mancherebbe, hai un minuto di tempo, quindi decidi tu. No, va bene, allora ne leggo una con la metrica quasi tradizionale. Dico solo questo, che parlando di donne che fanno una vita piuttosto sacrificata, piuttosto triste, la metrica è anche qui irregolare, però sono novenari e decasillabi, proprio per dare un tono strascicato al discorso. Okay. Le donne di Cancello Arnone. Le donne di Cancello Arnone cantano messa di Natale con le voci scheggiate e ripide di lavandaie malate d'amore. E l'inno un cappio sembra, un raffio per trascinarlo giù, questo Cristo finalmente, visto che qui poco finora lo si è visto. Così, sì, cantano, quasi dando strappi a una fune comune e attorta come il lenzuolo che stringi mentre dal ventre affitte spremi un figlio. Ansimante, grumoso il latino di Caserta varca la gola, tutto mischiato, cuore tritato, incenso, lacrime, pummarola. E se nessuno al solito neanche stanotte scende dalle stelle, noi però siamo ancora insieme, e si è tirato avanti un altro anno.